Ciao, io sono Daniele, collaboro con un'agenzia di comunicazione social e in questi giorni ho una quantità di lavoro superiore al solito ed è molto stressante non poter uscire di casa tranquillamente, non poter beccare gli amici. Vi leggo la prima parte di un libro per me bellissimo, Le città invisibili di Italo Calvino, che è fatto di tanti capitoletti titolati e numerati, compresi tra, diciamo così, un intro e un outro in cui si chiarisce la situazione, cioè c'è Marco Polo che racconta al Gran Khan, Kublai Khan, dei propri viaggi. Buon ascolto e mettetevi comodi perché ne avrete per una mezz'oretta. Non è detto che Kublai Khan creda a tutto quel che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma di certo l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo o esploratore. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli, un senso come di vuoto che ci prende una sera con l'odore degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo che si raffredda nei bracieri, una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne istoriati sulla fulva groppa dei planisferi, arrotola l'uno sull'altro i dispacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici di sconfitta in sconfitta e scrosta la cera lacca dei sigilli di re mai sentiti nominare, che implorano la protezione delle nostre armate avanzanti in cambio di tributi annuali in metalli preziosi, pelli conciate e gusci di testuggine. È il momento disperato in cui si scopre che quest'impero, che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie, è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo, Kublai Khan riusciva a discernere attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare la filigrana d'un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti. Le città e la memoria. 1. Partendosi di là e andando 3 giornate verso Levante, l'uomo si trova a Diomira, città con 60 cupole d'argento, statue in bronzo di tutti gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d'oro che canta ogni mattina su una torre. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce, per averle viste anche in altre città, ma la proprietà di questa è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le giornate si accorciano e le lampade multicolori s'accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie, e da una terrazza una voce di donna grida: "Uh!" Gli viene da invidiare quelli che ora pensano d'aver già vissuto una sera uguale a questa ed esser stati quella volta felici. Le città e la memoria. 2. All'uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio di una città. Finalmente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incrostate di chiocciole marine, dove si fabbricano a regola d'arte cannocchiali e violini, dove quando il forestiero è incerto tra due donne ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei galli degenerano in risse sanguinose tra gli scommettitori. A tutte queste cose egli pensava quando desiderava una città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni, con una differenza. La città sognata conteneva lui giovane. A Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c'è il muretto dei vecchi che guardano passare la gioventù. Lui è seduto in fila con loro. I desideri sono già ricordi. Le città e il desiderio. 1. Della città di Dorotea si può parlare in due maniere. Dire che quattro torri d'alluminio si elevano dalle sue mura, fiancheggiando sette porte, dal ponte levatoio a molla che scavalca il fossato, la cui acqua alimenta quattro verdi canali che attraversano la città e la dividono in nove quartieri, ognuno di 300 case e 700 fumaioli, e tenendo conto che le ragazze da marito di ciascun quartiere si sposano con giovani di altri quartieri, e le loro famiglie si scambiano le mercanzie che ognuna ha in privativa, bergamotti, uova di storione, astrolabi, ametiste, fare calcoli in base a questi dati fino a sapere tutto quello che si vuole della città nel passato, nel presente e nel futuro. Oppure dire, come il cammelliere che mi condusse laggiù, vi arrivai nella prima giovinezza, una mattina. Molta gente andava svelta per le vie del mercato. Le donne avevano bei denti e guardavano dritto negli occhi. Tre soldati sopra un palco suonavano il clarino. Dappertutto intorno giravano ruote e sventolavano scritte colorate. Prima d'allora non avevo conosciuto che il deserto e le piste delle carovane. Quella mattina a Dorotea sentii che non c'era bene della vita che non potessi aspettarmi. Nel seguito degli anni, i miei occhi sono tornati a contemplare le distese del deserto e le piste delle carovane, ma ora so che questa è solo una delle tante vie che mi si aprivano quella mattina a Dorotea. Le città e la memoria. 3. Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti bastioni. Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti, ma so già che sarebbe come non dirti nulla. Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. La distanza dal suolo d'un lampione e i piedi penzolanti d'un usurpatore impiccato. Il filo teso dal lampione alla ringhiera di fronte e i festoni che impavesano il percorso del corteo nuziale della regina, l'altezza di quella ringhiera e il salto dell'adultero che la scavalca all'alba, l'inclinazione d'una grondaia e l'incedervi d'un gatto che si infila nella stessa finestra, la linea di tiro della nave cannoniera apparsa all'improvviso dietro il capo e la bomba che distrugge la grondaia, gli strappi delle reti da pesca e i tre vecchi che seduti sul molo a rammendare le reti si raccontano per la centesima volta la storia della cannoniera dell'usurpatore, che si dice fosse un figlio adulterino della regina, abbandonato in fasce lì sul molo. Di quest'onda, che rifluisce dai ricordi, la città si imbeve come una spugna e si dilata. Una descrizione di Zaira, qual è oggi, dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira, ma la città non dice il suo passato. Lo contiene come le linee d'una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. Le città e il desiderio. 2. Di capo a 3 giornate, andando verso mezzodì, l'uomo si incontra ad Anastasia, città bagnata da canali concentrici e sorvolata da aquiloni. Dovrei ora enumerare le merci che qui si comprano con vantaggio: agata, onice, crisopazio e altre varietà di calcedonio. Lodare la carne del fagiano dorato che qui si cucina sulla fiamma di legno di ciliegio stagionato e si cosparge con molto origano, dire delle donne che ho visto fare il bagno nella vasca d'un giardino e che talvolta, si racconta, invitano il passeggero a spogliarsi con loro e a rincorrerle nell'acqua. Ma con queste notizie non ti direi la vera essenza della città. Perché mentre la descrizione di Anastasia non fa che risvegliare i desideri uno per volta per obbligarti a soffocarli, a chi si trova un mattino in mezzo ad Anastasia, i desideri si risvegliano tutti insieme. e ti circondano. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte. E poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. Tale potere, che ora dicono maligno, ora benigno, ha Anastasia, città ingannatrice. Se per 8 ore al giorno tu lavori come tagliatore da agate, onici, crisopazzi, la tua fatica, che dà forma al desiderio, prende dal desiderio la sua forma, e tu credi di godere per tutta Anastasia, mentre non ne sei che lo schiavo. Le città e i segni 1. L'uomo cammina per giornate tra gli alberi e le pietre. Raramente l'occhio si ferma su una cosa ed è quando l'ha riconosciuta per il segno di un'altra cosa. Un'impronta sulla sabbia indica il passaggio della tigre, un pantano annuncia una vena d'acqua, il fiore dell'ibisco la fine dell'inverno. Tutto il resto è muto e intercambiabile. Alberi e pietre sono soltanto ciò che sono. Finalmente il viaggio conduce alla città di Tamara. Ci si addentra per vie fitte di insegne che sporgono dai muri. L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. La tenaglia indica la casa del cavadenti, il boccale la taverna, le alabarde il corpo di guardia, la stadera l'erbivendola. Statue e scudi rappresentano leoni, delfini, torri, stelle. Segno che qualcosa, chissà cosa, ha per segno un leone o delfino o torre o stella. Altri segnali avvertono di ciò che in un luogo è proibito: entrare nel vicolo con i carretti, orinare dietro l'edicola, pescare con la canna dal ponte, e di ciò che è lecito: abbeverare le zebre, giocare a bocce, bruciare i cadaveri dei parenti. Dalla porta dei templi si vedono le statue degli dei, raffigurati ognuno coi suoi attributi, la cornucopia, la clessidra, la medusa, per cui il fedele può riconoscerli e rivolgere loro le preghiere giuste. Se un edificio non porta nessuna insegna o figura, la sua stessa forma e il posto che occupa nell'ordine della città bastano a indicarne la funzione: la reggia, la prigione, la zecca, la scuola pitagorica, il bordello. Anche le mercanzie che i venditori mettono in mostra sui banchi valgono non per se stesse, ma come segni di altre cose. La benda ricamata per la fronte vuol dire eleganza, la portantina dorata potere, i volumi di Averroè sapienza, il monile per la caviglia voluttà. Lo sguardo percorre le vie come pagine scritte. La città dice tutto quello che devi pensare. Ti fa ripetere il suo discorso e mentre credi di visitare Tamara, non fai che registrare i nomi con cui essa definisce se stessa e tutte le sue parti. Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga o nasconda, l'uomo esce da Tamara senza averlo saputo. Fuori si estende la terra vuota fino all'orizzonte. S'apre il cielo dove corrono le nuvole. Nella forma che il caso e il vento danno alle nuvole, l'uomo è già intento a riconoscere figure: un veliero, una mano, un elefante. Le città e la memoria 4. Al di là di 6 fiumi e 3 catene di montagne sorge Zora, città che chi l'ha vista una volta non può più dimenticare. Ma non perché essa lasci come altre città memorabili un'immagine fuori del comune nei ricordi. Zora ha la proprietà di restare nella memoria punto per punto, nella successione delle vie e delle case lungo le vie e delle porte e delle finestre nelle case, pur non mostrando in esse bellezze o rarità particolari. Il suo segreto è il modo in cui la vista scorre su figure che si succedono come in una partitura musicale, nella quale non si può cambiare o spostare nessuna nota. L'uomo che sa a memoria come è fatta Zora La notte, quando non può dormire, immagina di camminare per le sue vie e ricorda l'ordine in cui si succedono l'orologio di rame, la tenda a strisce del barbiere, lo zampillo dai 9 schizzi, la torre di vetro dell'astronomo, l'edicola del venditore di cocomeri, la statua dell'eremita e del leone, il bagno turco, il caffè all'angolo, la traversa che va al porto. Questa città, che non si cancella dalla mente, è come un'armatura, un reticolo, nelle cui caselle ognuno può disporre le cose che vuole ricordare: nomi di uomini illustri, virtù, numeri, classificazioni vegetali e minerali, date di battaglie, costellazioni, parti del discorso. Tra ogni nozione e ogni punto dell'itinerario potrà stabilire un nesso di affinità o di contrasto che serva da richiamo istantaneo alla memoria. Cosicché gli uomini più sapienti del mondo sono quelli che sanno a mente Zora. Ma inutilmente mi sono messo in viaggio per visitare la città, obbligata a restare immobile e uguale a se stessa per essere meglio ricordata. Zora languì. Si disfece e scomparve. La terra l'ha dimenticata. Le città e il desiderio. 3. In due modi si raggiunge Despina, per nave o per cammello. La città si presenta differente a chi viene da terra e a chi dal mare. Il cammelliere, che vede spuntare all'orizzonte dell'altipiano i pinnacoli dei grattacieli, le antenne radar, sbattere le maniche a vento bianche e rosse, buttare fumo ai fumaioli, pensa a una nave. Sa che è una città, ma la pensa come un bastimento che lo porti via dal deserto, un veliero che stia per salpare col vento che già gonfia le vele non ancora slegate, o un vapore con la caldaia che vibra nella carena di ferro, e pensa a tutti i porti. Alle merci d'oltremare che le gru scaricano sui moli, alle osterie dove equipaggi di diversa bandiera si rompono bottiglie sulla testa, alle finestre illuminate a pian terreno, ognuna con una donna che si pettina. Nella foschia della costa, il marinaio invece distingue la forma di una gobba di cammello, di una sella ricamata di frange luccicanti tra due gobbe chiazzate che avanzano dondolando. Sa che è una città, ma la pensa come un cammello, dal cui basto pendono otri e bisacce di frutta candita, vino di datteri, foglie di tabacco, e già si vede in testa a una lunga carovana che lo porta via dal deserto del mare, verso oasi d'acqua dolce all'ombra seghettata delle palme, verso palazzi dalle spesse mura di calce, dai cortili di piastrelle su cui ballano scalze le danzatrici, e muovono le braccia un po' nel velo e un po' fuori dal velo. Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone, e così il cammelliere e il marinaio vedono Despina, città di confine tra due deserti. Le città e i segni. 2. Dalla città di Zirma i viaggiatori tornano con ricordi ben distinti. Un negro cieco che grida nella folla, un pazzo che si sporge dal cornicione d'un grattacielo, una ragazza che passeggia con un puma legato al guinzaglio. In realtà molti dei ciechi che battono il bastone sui selciati di Zirma sono negri, in ogni grattacielo c'è qualcuno che impazzisce, tutti i pazzi passano le ore sui cornicioni e non c'è puma che non sia allevato per un capriccio di ragazza. La città è ridondante. Si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente. Torno anch'io da Zirma. Il mio ricordo comprende dirigibili che volano in tutti i sensi all'altezza delle finestre, vie di botteghe dove si disegnano tatuaggi sulla pelle ai marinai, treni sotterranei stipati di donne obese in preda all'afa. I compagni che erano con me nel viaggio, invece, giurano d'aver visto un solo dirigibile librarsi tra le guglie della città, un solo tatuatore disporre sul suo panchetto aghi, inchiostri e disegni traforati, una sola donna cannone farsi vento sulla piattaforma d'un vagone. La memoria è ridondante, ripete i segni perché la città cominci a esistere. Le città sottili, 1. Isaura, città dai mille pozzi, si presume sorga sopra un profondo lago sotterraneo. Dappertutto, dove gli abitanti, scavando nella terra lunghi buchi verticali, sono riusciti a tirar su dell'acqua, fin là e non oltre si è estesa la città. Il suo perimetro verdeggiante ripete quello delle rive buie del lago sepolto. Un paesaggio invisibile condiziona quello visibile. Tutto ciò che si muove al sole è spinto dall'onda che batte chiusa sotto il cielo calcareo della roccia. Di conseguenza, religioni di due specie si danno a Isaura. Gli dei della città, secondo alcuni, abitano nelle profondità, nel lago nero che nutre le vene sotterranee. Secondo altri, gli dei abitano nei secchi che risalgono appesi alla fune quando appaiono fuori della vera dei pozzi, nelle carrucole che girano, negli argani delle norie, nelle leve delle pompe, nelle pale dei mulini a vento che tirano sull'acqua delle trivellazioni, nei castelli di traliccio che reggono l'avvitarsi delle sonde, nei serbatoi pensili sopra i tetti in cima a trampoli, negli archi sottili degli acquedotti, in tutte le colonne d'acqua, i tubi verticali, i saliscendi, i troppopieni, su fino alle girandole che sormontano le aeree impalcature di Isaura, città che si muove tutta verso l'alto. Inviati a ispezionare le remote province, i messi e gli esattori del Gran Khan facevano ritorno puntualmente alla reggia di Kemenfu e ai giardini di magnolie alla cui ombra Kublai passeggiava ascoltando le loro lunghe relazioni. Gli ambasciatori erano persiani, armeni, siriani, copti, turcomanni. L'imperatore è colui che è straniero a ciascuno dei suoi sudditi e solo attraverso occhi e orecchi stranieri l'impero poteva manifestare la sua esistenza a Kublai. In lingue incomprensibili al Khan, i messi riferivano notizie intese in lingue a loro incomprensibili. Da questo opaco spessore sonoro emergevano le cifre introitate dal fisco imperiale, i nomi e i patronimici dei funzionari deposti e decapitati, le dimensioni dei canali di irrigazione che i magri fiumi nutrivano in tempi di siccità. Ma quando a fare il suo resoconto era il giovane veneziano, una comunicazione diversa si stabiliva tra lui e l'imperatore. Nuovo arrivato e affatto ignaro delle lingue del Levante, Marco Polo non poteva esprimersi altrimenti che con gesti, salti, grida di meraviglia, d'orrore, latrati o chiorli d'animali, o con oggetti che andava estraendo dalle sue bisacce. Piume di struzzo, cerbottane, quarzi, e disponendo davanti a sé come pezzi degli scacchi. Di ritorno dalle missioni cui Kublai lo destinava, l'ingegnoso straniero improvvisava pantomime che il sovrano doveva interpretare. Una città era designata dal salto d'un pesce che sfuggiva al becco del cormorano per cadere in una rete, un'altra città da un uomo nudo che attraversava il fuoco senza bruciarsi. Una terza da un teschio che stringeva tra i denti verdi di muffa una perla candida e rotonda. Il Gran Khan decifrava i segni, però il nesso tra questi e i luoghi visitati rimaneva incerto. Non sapeva mai se Marco volesse rappresentare un'avventura occorsa agli in viaggio, un'impresa del fondatore della città, la profezia di un astrologo, un rebus o una sciarada per indicare un nome. Ma palese o oscuro che fosse, tutto quel che Marco mostrava aveva il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimenticare né confondere. Nella mente del Khan l'impero si rifletteva in un deserto di dati labili e intercambiabili come grani di sabbia da cui emergevano per ogni città e provincia le figure evocate dai logogrifi del veneziano. Col succedersi delle stagioni e delle ambascerie, Marco si impratichì della lingua tartara e di molti idiomi di nazioni e dialetti di tribù. I suoi racconti erano adesso i più precisi e minuziosi che il Gran Khan potesse desiderare e non v'era quesito o curiosità cui non rispondessero. Eppure ogni notizia su di un luogo richiamava alla mente dell'imperatore quel primo gesto o oggetto con cui il luogo era stato designato da Marco. Il nuovo dato riceveva un senso da quell'emblema e insieme aggiungeva all'emblema un nuovo senso. Forse l'impero, pensò Kublai, non è altro che uno zodiaco di fantasmi della mente. Il giorno in cui conoscerò tutti gli emblemi, chiese a Marco, riuscirò a possedere il mio impero finalmente? E il veneziano, Sire, non lo credere, quel giorno sarai tu stesso emblema tra gli emblemi.